Now for the final set of new language for this unit. Ascolti le parole e le espressioni nuove e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Risale al. It dates back to. Risale al. Dodicesimo secolo. 12th century. Dodicesimo secolo. Paese. Village. Paese. Importante. Important. Importante. La capitale. The capital. La capitale. Affollata. Crowded, feminine. Affollata. Entriamo. Let's enter or we enter. Entriamo. Padiglione. Pavilion. Padiglione. Produttori. Producers. Produttori. Lo stand. The stand. Lo stand. Moltissime parole nuove. Troppe? No, molte, ma non troppe. Adesso ripassi le parole e quando si sente sicuro, ascolti il prossimo dialogo.